Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, una delle ultime chiaramente del 2009. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria, devo dire giornata tutto sommato anche densa di notizie, considerato il periodo. Perché? Perché, come già vi ha ricordato il nostro GR, è uscito oggi una nota, un rapporto dell'antitrust che ha detto: attenzione, i consumatori, i clienti delle banche finiranno col pagare di più il rimedio di quanto non fosse il male, ossia l'eliminazione per legge della commissione di massimo scoperto ha portato a un'introduzione di una nuova procedura che va a costare, adesso la racconteremo, di più di quanto non costasse la commissione di massimo scoperto. Un buon risultato, potremmo parlare anche di salto della quaglia. Altra notizia di oggi, l'Istat sul 2008, il dato è ormai vecchio di quasi un anno, però fotografa per la prima volta, nell'anno in cui la crisi finanziaria ha iniziato a scaricarsi, da settembre-ottobre in poi, un aumento del tasso di povertà. Anche qui cercheremo di capire, perché col massimo rispetto per l'Istat e con il massimo rispetto per le persone che in questo momento versano in condizioni davvero difficili, è molto alta la cifra che diffonde l'Istat oggi. Dice che praticamente nel 2008 una famiglia su 10 è rimasta al freddo, non potendosi permettere di riscaldare sufficientemente l'abitazione, e addirittura una su cinque, quasi, cioè il 18%, ha avuto difficoltà a acquistare gli abiti necessari. Una quota in aumento rispetto al 2007, è aumentata anche la quota di chi non è riuscito a pagare regolarmente le bollette, il 12% contro l'8% nel 2007, un 2% di aumento medio delle famiglie che hanno avuto difficoltà economiche. Questa è la seconda notizia di oggi. La terza riguarda, anche qui avete avuto un anticipo del nostro GR, riguarda lo scudo fiscale. I 95 miliardi di euro rientrati sono almeno 15 miliardi in più rispetto alle attese del governo, che erano di 80 miliardi, e vanno praticamente a rappresentare quasi 6 punti percentuali di PIL. Ricordo però la proroga dello scudo nelle due versioni, fino a marzo e fino a fine aprile. Poi, come sempre, i mercati, e ancora va segnalata la quinta seduta consecutiva positiva, a meno che non cambino le cose nell'arco di 20 minuti. Piazza Affari e le altre borse europee si avviano a chiudere con mezzo punto percentuale di rialzo. Questo vale per Milano, per Parigi e anche per Londra, mentre l'America sta guadagnando lo 0,1%, più ridotto il rialzo di Francoforte, più 0,2%. Ultima cifra, come sempre, 349-238-6666 per i vostri sms. Le altre notizie in breve. E allora partiamo, come sempre facciamo, dall'estero, e iniziando col rapporto di cambio euro-dollaro, poco mosso, 1,4380, è stabile a quota 1,4290, 1,4380 il rapporto euro-dollaro. Il petrolio invece si sta avvicinando agli 80 dollari il barile, siamo a 79,23 per la precisione. E sempre sul fronte del petrolio, in questo caso benzina, nuovi aumenti già annunciati ieri, quelli di Erg e altre compagnie. Oggi l'Agip ha staccato tutti, ha portato la benzina a 1,324 euro al litro, 2 centesimi e mezzo in più, e sopra 1,3 euro al litro anche API, IP e Tamoil. Il gasolio dell'Agip ha toccato quota 1,169 euro, 2 centesimi in più. Tornando all'economia internazionale, invece, è crollata oggi nella borsa di Tokyo il titolo della compagnia aerea Japan Airlines. La borsa di Tokyo è crollata. Che cosa è successo? Il ministro delle finanze giapponese Fuji ha detto che il governo non concederà altri prestiti alla compagnia di bandiera Japan Airlines, e a questo punto si sono diffuse voci di una possibile bancarotta. Poi però è intervenuto il ministro dei trasporti giapponese che ha chiesto alle banche di continuare a finanziare Japan Airlines per evitare la bancarotta della compagnia nipponica. In America continua a calare il prezzo delle case, meno 7% a ottobre rispetto a un anno prima, comunque il calo più contenuto da quando è scoppiata proprio storicamente questa crisi, cioè dall'ottobre del 2007. Le case infatti sono calate del 10%, del 12%, adesso sono arrivate al 7% come prezzo anno su anno, mese su mese invece c'è stato un leggero rialzo, lo 0,4%. Torna a salire anche la fiducia dei consumatori americani a 53 punti a dicembre, in linea questa volta, una volta tanto, con le attese degli analisti. L'Italia, allora, si diceva dell'antitrust. Le nuove commissioni bancarie che hanno sostituito le commissioni di massimo scoperto si stanno rivelando più costose per i consumatori. Lo ha detto l'antitrust in una segnalazione che ha inviato sia al governo che al Parlamento che alla Banca d'Italia. Praticamente in un'analisi che ha coinvolto i maggiori operatori del settore emerge che per gli scoperti transitori di conto corrente che hanno sostituito la commissione di massimo scoperto eliminata e rientrata dalla finestra con questa nuova edizione, si è verificato un innalzamento dei costi per i correntisti. Praticamente per chi va in rosso sul conto i costi sono aumentati fino a picchi di 15 volte. Voglio dire, se questo è il modo di rispondere a una legge che voleva proibire, che ha proibito la commissione di massimo scoperto, complimenti, poi dite che ce l'abbiamo con le banche. Ma insomma, più di 15 volte rispetto alla vecchia commissione di massimo scoperto. Per i clienti che possono contare invece sul fido, la situazione ha subito un sostanziale peggioramento rispetto alla semplice applicazione della commissione di massimo scoperto fino all'entrata in vigore della legge del 3 agosto 2009, che ha stabilito che comunque il corrispettivo onnicomprensivo del servizio non può superare lo 0,5%, e questo ha bloccato, diciamo, tassi ancora più elevati. Vabbè. Immagino che se ne parlerà sullo scudo fiscale. Ancora una nota, perché il Tesoro ha spiegato che 95 miliardi di euro è il volume delle operazioni finora scudate, il 98% è fatto da rimpatri effettivi in Italia, quindi non solo giuridici. Va bene, primo tema della puntata, l'indagine dell'Istat sulla povertà degli italiani. Voglio dire, non tanto perché sia sotto Natale, ma anche perché sia sotto Natale, ogni tanto ricordarsi delle famiglie che veramente non ce la fanno, sempre però cercando di capire quanto affidabili, lo dico col massimo rispetto delle famiglie bisognose, quanto affidabili siano questi dati in un paese che purtroppo in alcune aree soprattutto conosce ampie sacche di economia sommersa, quello che si chiama nero. 349-238-6666 per i vostri sms e partiamo allora col primo tema. Una famiglia su 10 al freddo nel 2008, così ci comunica oggi l'Istat. Avete ragione, lo dico chi scrive a 349-238-6666, avete colto nel segno. Da un lato c'è un'Italia che fa rientrare fino ad ora 95 miliardi di euro, stiamo parlando di 190 mila miliardi delle vecchie lire, attraverso lo scudo fiscale parcheggiato in Svizzera, in Liechtenstein, dove volete voi. E dall'altra c'è un'Italia in cui una famiglia su 10 non può permettersi il riscaldamento, è comunque rimasta al freddo l'anno scorso, una su cinque non è riuscita a acquistare gli abiti necessari e una su 10 non è riuscita a pagare regolarmente le bollette. Ancora i vantaggi della social card solo per 91.000 famiglie, questa è la notizia già uscita da un rapporto del CIES, che è l'organismo che fa capo al Ministero del Welfare e fu presentato lo scorso 17 dicembre, servirebbero 3 miliardi e 8 in più, ma questo rapporto dell'Istat arriva dopo quello del centro della fondazione BNL Einaudi in cui è venuto fuori che nel rapporto sul risparmio quest'anno che metà degli italiani non riusciva a risparmiare, che erano in difficoltà, ed era in difficoltà una famiglia ogni 5, era in difficoltà con il mutuo per via appunto degli effetti della crisi economica. Resta un dubbio, ma ripeto, un dubbio, non so se mi passate il termine, intellettuale, sul fatto che insomma, è spaventoso il numero di famiglie che non ce la fanno a, nemmeno a pagare il riscaldamento. E allora chiedo lumi, e spero di non caricarlo di un onere eccessivo, a Stefano Zamagni, che insegna politica economica all'Università di Bologna e alla Bocconi di Milano ed è un grande studioso da sempre proprio dei temi della distribuzione del reddito, della ricchezza e della povertà, ahimè, nella struttura sociale. Buonasera, professore. Buonasera. Allora, so già che poi mi attirerò alcune critiche, ma insomma non voglio sembrare scettico perché e dire va tutto bene, madama la Marchesa, però 2008 è un anno in cui sicuramente negli ultimi 3 mesi si è scaricata la prima parte di questa crisi. L'Istat dice: difficoltà economiche delle famiglie hanno portato la soglia delle famiglie che hanno avuto seri problemi a giungere a fine mese al 17%, 2 punti in più rispetto al 2007, che era il 15%. Ancora, quelle che non hanno potuto comprare abiti, 18% contro il 16%. Chi non è riuscito a pagare bollette, 12% contro l'8,8% del 2007. E fin qui, voglio dire, 2 punti percentuali ci possono anche stare, ma una su 10, quasi l'11% che non è riuscita a pagare le bollette lo scorso inverno, per cioè è rimasta a freddo non potendosi permettere di riscaldare la casa. Non è tanto, professore? Ma dunque, i dati dell'Istat non giungono inattesi. In effetti è da anni che coloro i quali studiano la transizione in atto dalla cosiddetta società industriale alla società post-industriale hanno messo in evidenza quello che questi dati ci dicono. Quindi la crisi di cui tutti parlano in effetti è servita ad accelerare un processo che era già in opera da qualche tempo. Io, per a beneficio dei miei studenti, già da anni ho usato un modellino che ho visto ho avuto una certa fortuna perché rende molto bene l'idea, ed è il seguente: nella società industriale la struttura della società era piramidale, immaginiamo una piramide. Oggi non è più così, oggi la struttura sociale è rappresentabile da una clessidra, e la clessidra, immaginiamola di fronte ai nostri occhi, ha una zona molto stretta nel livello intermedio, il che vuol dire che oggi chi sta peggiorando le proprie condizioni di vita sono i ceti medi e medio-bassi, mentre i livelli alti vedono migliorare le proprie posizioni. Il fatto che dallo scudo entrino 95 miliardi è ancora la migliore testimonianza di quanto si dice. Mentre una volta nella struttura piramidale il vertice era riservato o conteneva poche unità, pochi soggetti, oggi il vertice si va espandendo per verso una base superiore, sì, mentre sono i livelli intermedi. Quindi oggi diminuisce la povertà assoluta mentre aumenta la povertà relativa, dove relativa vuol dire persone o famiglie che rispetto ad un anno base vedono anno dopo anno peggiorate le proprie condizioni di vita. I numeri che abbiamo ascoltati, che lei ha puntualmente riferito poc'anzi, ne sono la triste conferma. Allora, che voglio dire, la struttura sia diventata clessidra è un tema che stiamo affrontando anche con lei, ci mancherebbe, se non ricordo male, dal 2002-2003, da quando è arrivato l'euro, e ci sono state le prime ricerche, inchieste anche giornalistiche sulla scomparsa della classe media, della borghesia classica e via dicendo. Non c'è nulla di nuovo, ahimè, su questo fronte. Mi lascia molto sorpreso però il dato di insomma, 10% delle famiglie che non riescono a pagare il riscaldamento. Cioè, e la domanda gliela chiarisco ancora di più. In un paese in cui ci sono circa 200 miliardi di lavoro, di reddito inevaso, e sappiamo cosa vuol dire questo poi anche per i conti pubblici, in cui il nero, in cui alcune attività sono tornate in nero perché la crisi economica ha reso più conveniente molte attività artigiane, del commercio, dei servizi, diciamo, sottofatturare per essere buoni, se non fatturare affatto, non è che la fotografia che esce dall'Istat sia eccessivamente negativa, pur restando tutte le analisi che ormai sono appunto di 5-6 anni fa di una difficoltà della classe media, di una classe di ricchi che aumenta sempre di più, una classe di persone in difficoltà che aumenta sempre di più con la scomparsa della classe media, ma c'è qualcosa, non so, che mi lascia un po' perplesso, però no, condivido la sua perplessità, ed è così in effetti, tant'è vero che le compensazioni attraverso il nero o altre forme analoghe dimostrano il fatto che, nonostante i dati Istat, la percezione dell'italiano medio sulle sue condizioni di vita non è così diminuita come quei dati lascerebbero pensare. In altre parole, se... E c'è un problema di linea con il professor Giamani, adesso lo riprendiamo. Giustamente alcuni di voi fanno notare che, insomma, vorrebbe dire che in un condominio con 20 appartamenti due famiglie vivono al freddo con polmoniti vari degli eventuali bambini. Cioè, il 10% è una cifra spaventosa. L'Istat dice l'11%. Altro tema che sollevate con i messaggi riguarda invece l'importanza non tanto del dato secco, cioè 11 famiglie su 100, ma della tendenza in questi anni. Ed è chiaro, e su questo mi sembra invece che ci possa essere maggior consenso, che c'è un peggioramento del numero di famiglie povere, del numero di famiglie che hanno difficoltà a finire il mese, del numero di famiglie che non riescono a acquistare gli abiti o a pagare il riscaldamento. Abbiamo recuperato il professor Zamagni, l'abbiamo persa a un certo momento, professore. No, era per dire che sono d'accordo con la sua osservazione. Probabilmente l'Istat usa dei criteri di rilevazione che non tengono conto di questo dato di cui già si diceva. Il punto è comunque, però, ugualmente resta preoccupante, perché se da un lato questi correttivi, chiamiamoli così, ci aiutano a capire come mai, nonostante tutto, la percezione media dell'italiano non sia così devastante come poi i dati lascerebbero, dall'altro però il problema di cui ho detto all'inizio, la trasformazione da una struttura piramidale ad una clessidra, è reale, quello sì che è, ed è destinato ad aumentare. Perché? Perché in un'economia della conoscenza è un'economia basata sulla produzione di idee. Ebbene, si dimostra, la storia economica ce lo conferma, che un'economia basata sulla produzione di idee tende per natura sua, a parità di altre condizioni, ad essere più inegualitaria, cioè più diseguale, che non un'economia basata sulla produzione delle merci. E questo è il motivo per cui oggi ci sono più poveri relativi, ripeto relativi non assoluti, che non 30, 40, 50 anni fa, perché la nostra struttura produttiva era soprattutto orientata alla produzione di cose. Oggi invece la knowledge economy, cioè l'economia della conoscenza, tende a divaricare ulteriormente ed è di questo che probabilmente la politica economica, ma in generale la società civile, su questo dovrebbe riflettere molto. Allora, fermo restando che noi comunque restiamo anche dei grandissimi produttori di cose, e ho dimenticato di ricordare che nella seconda ora del programma parleremo con Marco Fortis, che avesse visto oggi Sole 24 Ore, ha visto, insomma, i settori in cui l'Italia è leader, numero uno, numero due al mondo, sono settori importantissimi, la rubinetteria come export vale 5 miliardi, cifre incredibili, per cui restiamo dei grandi campioni di export e dei grandi campioni sulle nicchie, ma dove per nicchie non si deve intendere il lusso, si deve intendere un qualcosa anche di molto importante. La battuta sarebbe facile, professor Zamagni, se l'economia o il paese delle idee fosse un paese più diseguale, noi dovremmo essere il paese più uguale al mondo. Però, nel senso che qua le idee io non ne vedo circolare tantissime. Però i distretti industriali hanno il successo, come Marco Fortis e altri giustamente mettono in evidenza, grazie a una produzione di idee. Cioè dire, altrimenti con la rubinetteria vecchio stampo non si potrebbe esportare. Il punto è che quando si dice produzione di idee, io intendo produzione di idee applicate alla produzione di cose, di merci, di un tipo o dell'altro. Quello che voglio dire è che oggi non è più possibile pensare di orientare lo sviluppo su una ripetitività di modelli, di processi produttivi che appartengono ad altre classi. Allora, torniamo all'Istat però, perché io purtroppo divento tignoso su queste cose, perché poi l'Istat scrive: lo scorso inverno, appunto, 11 famiglie su 100 sono rimaste al freddo non potendosi permettere di riscaldare sufficientemente la propria abitazione. E già qui iniziamo, no, con gli avverbi, cosa vuol dire sufficientemente? A 20 gradi, a 25, anche qui con il massimo rispetto, però è chiaro che se sei stato più attento e hai tenuto la casa un po' più fredda per pagare meno bolletta, io non ti definirei povero, anzi dal punto di vista ecologico. Certo che se ti sei preso il raffreddore o giravi con i cappotti in casa, le pentole sui fornelli per abolire l'acqua, lì sei in una condizione di indigenza. Però vorrei capire un'altra cosa, professore: questi dati applicati al sud hanno senso? Glielo chiedo anche qui con massimo rispetto, perché l'Istat ci dice che in Sicilia la quota di famiglie in difficoltà ha raggiunto il 30%, cioè una su tre. Mi dica. Questo è l'eterno problema del dualismo italiano, e cioè che queste cifre sono riferite ad una situazione media che non tiene conto del forte dualismo nord-sud che esiste nel nostro paese. Il dato, ad esempio, del riscaldamento può sembrare banale, ma è eclatante. È ovvio che il riscaldamento al sud pone un problema diverso rispetto al riscaldamento al nord, e così via, con le possibilità a cui prima si faceva riferimento di lavori di secondo e terzo ordine che sono molto più diffusi al sud che non al nord. In effetti noi dovremmo poter arrivare ad arricchire i sistemi di rilevazione della contabilità nazionale per tener conto, come avviene già in altri paesi più avanzati. E qui volevo arrivare, perché insomma, dal punto di vista vostro, cioè di chi si deve occupare anche di fare proposte alla classe politica a tutti i livelli per che cosa fare, come intervenire, come si sta modificando la struttura sociale del paese, insomma, se un medico non avesse i raggi X o avesse una macchina sballata avrebbe difficoltà anche a fare diagnosi. Allora la mia sensazione è che qui delle volte, quando si va a toccare i problemi delicatissimi come sono quelli del potere d'acquisto, la ricchezza personale, si usi una lente da presbiti per uno che ha la miopia. Cioè, voglio dire, anche il riferimento alla social card, si è capito che è servito a poco, inutile fare tanta polemica politica, 91.000 famiglie, lo dice lo stesso ministero del welfare, è poca roba e servirebbero 3,8 miliardi. Però come si fa a operare politiche di welfare se non riusciamo a capire com'è cambiata, com'è fatta e quanto è veramente impoverita la struttura sociale? Bisogna avere il coraggio di affrontare il toro per le corna, e cioè passare da politiche di welfare che tendono a migliorare le condizioni di vita delle persone a politiche di welfare che migliorino le capacità di vita delle persone. Tutto qui. La social card appartiene alla prima categoria, cioè c'è un povero estremo, gli do una social card e questo tira un sospiro di sollievo. Ora, questi provvedimenti vanno bene in una situazione emergenziale, non possono costituire politiche di medio e lungo termine. Dobbiamo noi migliorare le capacità di vita delle persone, che vuol dire, per usare i vecchi termini, meno politiche di tipo assistenzialistico e più politiche di tipo abilitanti. Il nostro Mezzogiorno ha soprattutto bisogno di queste politiche, e oggi gli strumenti per farlo ci sono, ne cito uno solo. In Francia nel 2006 una legge nazionale ha lanciato i CESU, acronimo che sta per Chèque d'Emploi Service Universel, un sistema di voucher che consente alle famiglie di reddito medio-basso di ottenere servizi necessari all'andamento della famiglia ad un costo molto più basso di quello di mercato. Al tempo stesso crea posizioni lavorative in quelle botteghe artigianali, così sono chiamate in Francia, ai quali aderiscono coloro i quali, pensionati o non, hanno bisogno di aggiustare il proprio stipendio. Il risultato è stato notevolissimo. Sono state create nel giro di un anno e mezzo 100.000 botteghe artigianali, e questo ha beneficiato oltre 3 milioni di famiglie. Ecco, questi sono i modi attraverso i quali dobbiamo intervenire, cioè politiche che migliorano le capacità, non tanto che ti danno l'assistenza, perché senza che dare la social card ti do un voucher che consente alla famiglia di ottenere da un artigiano che mi aggiusti il sistema idraulico della mia casa, cosa che non potrei fare ai prezzi di mercato, io ottengo il duplice vantaggio di favorire la famiglia e di creare un'attività lavorativa. E devo dire che c'è stato un esempio che noi portammo anche in trasmissione, purtroppo come tutte le cose virtuose in questo paese si dimenticano. Quello della Luxottica, un anno fa, vado a memoria, decise di dare 200, non mi ricordo la cifra esatta, euro ai dipendenti in più, però non in busta paga, ma attraverso dei voucher di acquisto in determinati negozi. E questo aveva l'effetto, da un lato, di far ripartire veramente i consumi, perché sennò uno si ritiene sotto il materasso, dall'altro anche di aiutare appunto tutta una rete di commercio e di artigiani dell'area. Nessuno che mi risulti ha più seguito l'esempio della Luxottica. Peccato, ci sembrava un esempio virtuoso. Grazie, e a questo punto buon anno a Stefano Zamagni, che insegna politica economica a Bologna e alla Bocconi di Milano. Grazie. Io poi leggo tutti i messaggi, ci mancherebbe. Ci scrive un amministratore di due condomini a Roma, può confermare che 2 famiglie su 10 hanno gravi difficoltà a pagare le bollette. Ci mancherebbe, bisogna poi specificare che tipo di condomini sono, se sono in una zona popolare, quindi dove i redditi sono già difficili, ma ripeto, nessuno sta sottostimando il problema. L'Istat da sempre ci dice che ci sono 8 milioni di poveri in Italia, cioè chi guadagna meno della metà della media, pari al 13,5% della popolazione. E che ci sia in Italia un po' a due facce, 95 miliardi di scudo e uno su 10 non riesce a riscaldare la casa come vorrebbe, lo dimostrerà anche l'approfondimento dopo il meteo e la borsa, ossia il turismo, perché parlando con gli operatori del turismo, certo la difficoltà c'è soprattutto sugli stranieri, area dollaro ma non solo, e pandemie suine permettendo, ma a dire il vero sul fronte italiano, anzi i dati degli italiani che vanno all'estero spenderanno anche un po' di più, per cui insomma tutto questo tracollo di una parte della popolazione non si vede. 349-238-6666 per i vostri sms, ci risentiamo dopo il meteo. Focus Economia. Allora, buona la chiusura di borsa, quinto rialzo consecutivo, più 0,3%, non è gran cosa, ma insomma sempre in positivo, come a Parigi, Francoforte più 0,1%, l'America invariata, adesso Londra mezzo punto percentuale, euro a quota 1,43%, devo dire che se Geox perde l'1,3%, ST Microelectronics l'1%, Buzzi Unicem lo 0,80%, come la Popolare di Milano, bene vanno oggi di nuovo gli assicurativi, Unipol più 1,91%, Generali più 1,23%, e Fondiaria a mezzo punto percentuale, Autogrill più 1,6%, l'Automatica più 1,4%, Finmeccanica più 1%, CIR più 1%, Prismian anch'esso 1%, Ansaldo STS più 0,80%, Intesa più 0,80%, 2A mezzo punto percentuale di rialzo, come gruppo Unicredit, di nuovo quindi interesse sul settore assicurativo dopo l'acquisizione Arca da parte di Unipo, ma sono salite appunto anche Fondiare 6 Generali. Ma la notizia di oggi mi sembra la notizia insomma di un debutto da un lato e di una ristrutturazione dall'altro, su titoli molto sottili. Andrea Fontana, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Oggi ha debuttato House Building, che è il secondo debutto nell'arco di 2 settimane, la seconda matricola, ed è stato un botto, cioè si mangerà le mani chi ha saputo che se avesse messo 1000 euro oggi sul titolo House Building ne avrebbe guadagnati 600 in un giorno, e quindi 10.000, 6.000 e via così. Ha guadagnato il 67%, quindi anche di più, il titolo a 3,1 euro. Snia molto bene dopo l'accordo con i creditori. Andrea. Sì, certamente ha sorpreso che un settore che un titolo del settore immobiliare in una giornata, in un anno come questo, dove gli immobiliari sono stati spesso nell'occhio del ciclone, abbia realizzato un collocamento così importante. House Building, che fa parte del gruppo Uniland, anch'essa quotata, società di costruzione immobiliare di Imola, ha esordito con un prezzo di 1,85, è arrivata a quotare, come tu ricordavi, più 67%, era tanto, esatto, che non si vedeva una cosa del genere. Oltre i 3 euro, e certamente questo ha ben indirizzato il mercato anche sugli altri titoli immobiliari. Ad esempio Gabbete si è mossa in evidente rialzo, anche se poi la società in una nota ha specificato, con un più 17% oggi, anche se la società in una nota ha specificato di non essere a conoscenza dei motivi dell'andamento. Per quanto riguarda Snia, oggi quasi più 10% per il titolo del gruppo chimico di Milano, che proprio ieri ha comunicato di aver raggiunto ormai il 98% accordi con il 98% dei creditori. Mancano ormai solo due intese con i creditori che possano permettere a SNIA di depositare al tribunale fallimentare appunto l'accordo con i creditori, e quindi il salvataggio del gruppo chimico che versa in una situazione non troppo brillante, diciamo così, è ormai ad un passo, e il mercato finalmente se ne è reso conto e oggi ha premiato il titolo. Ancora peggior titolo TBS Group, meno 4,87%, stranamente Risanamento ha perso, dico stranamente perché oggi sono stati bene tutti gli immobiliari, evidentemente i motivi sono alti, alcuni li conosciamo già, meno 2,4%. L'ultima notizia che vorrei chiederti, riguarda i titoli del risparmio gestito, perché anche questi si sono mossi bene e mi sembra che qui si possa parlare di effetto scudo, visto che sono rientrati 95 miliardi e le SGR la fanno da padroni in questo lavoro, no? Beh, certamente sì, un po' questo effetto si è già visto, diciamo, sui titoli del comparto assicurativo, come tu ricordavi, anche se va detto che il settore assicurativo durante questo anno insieme all'utilities è stato certamente quello che si è comportato meno bene, che ha sofferto un po' di più, e quindi non deve stupire che alla fine dell'anno si vada in cerca di quei settori che forse nel 2010 avranno una ripartenza. Per quanto riguarda invece i titoli del risparmio gestito in maniera più specifica, vediamo come Azimut e Banca Generali oggi in una giornata tutto sommato timida, pur in crescita per il mercato, dal punto di vista degli indici abbiano messo a segno delle buone performance. Azimut è cresciuta dell'1,2%, Banca Generali quasi dell'1,5%, quindi certamente i dati comunicati al Ministero del Tesoro sull'effetto sullo scudo fiscale e sul capitale rientrati hanno avuto il loro effetto sui listini. Grazie Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore. E come annunciato, sia alla luce dei dati Istat sulla povertà, ci interessava capire come mai in realtà il turismo nazionale non perde così tanto, sia perché siamo in un periodo in cui anche i tour operator, quindi chi organizza e vende i pacchetti alle agenzie, inizia a fare i primi conti, perché ormai le prenotazioni tutto sommato dovrebbe essere chiuso, fatto salvo qualche last minute. Ci occupiamo a questo punto di turismo. Ossia il 10% del nostro PIL, 150 miliardi di euro, questo vale il turismo in Italia, il 10% della forza lavoro, anche qui le imprese del settore sono circa 300.000, 2 milioni e mezzo quasi gli occupati. Eravamo primi al mondo nel 1970, oggi siamo quinti come destinazione più visitata dopo Francia, Spagna, Stati Uniti e Cina. Come sta andando il turismo italiano? La spesa dei turisti internazionali, gli stranieri che vengono in Italia, è drasticamente calata, meno 8%, quasi un crollo, 29 miliardi di euro. Gli italiani che vanno all'estero invece spendono come l'anno scorso, quasi 20 miliardi di euro, meno 1%, scusatemi. Il fatturato del tour operator è in calo, meno 10% a 6 miliardi, però a Natale il giro d'affari dovrebbe essere in crescita di un 10% a 5 miliardi e 300 milioni. Perché? Perché cala la spesa media di 50 euro, da 550 a 500 euro, però aumenta il numero di persone e il numero di turisti. Saluto allora e ringrazio Roberto Corbella, presidente di Astoi, che è l'associazione tour operator italiani, che raggruppa appunto 60 tra i principali tour operator presenti in Italia. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera anche a Daniel Ponzo, amministratore delegato del gruppo Cuoni, quotato a Zurigo, uno dei più importanti operatori turistici al mondo, e ha appunto 45 destinazioni in 5 continenti in catalogo. Buonasera Ponzo. E grazie anche a Lorenzo Giannuzzi, amministratore delegato del Forte Village e del Relais Chateau Castel Monastero. Buonasera Giannuzzi. Buonasera a voi. Allora, tre diversi profili per tre diversi temi. Partiamo subito, come facciamo spesso in questo programma, con una scheda, i dati, l'andamento congiunturale e anche l'andamento poi che si tratti di montagna, mare, poco mare sotto Natale, e città d'arte. La crisi ha morso, ma con meno voracità che altrove. e alla fine il turismo chiude il 2009 come uno dei settori che ha retto meglio l'impatto della crisi. Il turismo domestico non ha brillato, ma ha retto. I turisti internazionali hanno stretto la cinghia, ma non hanno disertato il nostro paese. La spesa degli stranieri è stata di 29 miliardi di euro, 2 miliardi e mezzo in meno del 2008, vale a dire un calo dell'8%, ma non un tracollo. Il confronto internazionale non è inoltre particolarmente penalizzante. In Francia si è registrato un calo paragonabile al nostro, mentre in Spagna si è arrivati a un meno 10%. Più nel dettaglio, i tedeschi si sono confermati i clienti più affezionati al bel paese, garantendo il 17% degli incassi e aumentando il numero di presenze, soprattutto nella Riviera Adriatica, preferita a mete spagnole o francesi, grazie ai prezzi più vantaggiosi. Inglesi e statunitensi, penalizzati da un cambio sfavorevole, sono i turisti che hanno stretto di più la cinghia. All'opposto, i clienti russi, che hanno addirittura aumentato la loro spesa complessiva di 33 milioni di euro rispetto al 2008. Tra le città ha retto Venezia, con un calo degli incassi limitato a un meno 3%. Flessioni a due cifre invece per Firenze, Milano e Napoli, mentre Roma si colloca nel mezzo con un meno 8%. Le regioni più gettonate si confermano nell'ordine Lombardia, Lazio, Veneto, Toscana ed Emilia-Romagna. Restano invece ancora ben al di sotto del loro potenziale le regioni meridionali, sebbene non manchi qualche segnale incoraggiante, visto che il gap rispetto al centro-nord si sta lentamente ma costantemente riducendo. Altra nota positiva è il fatto che il calo complessivo degli incassi abbia riguardato soprattutto la prima parte dell'anno, mentre negli ultimi mesi si è assistito a un parziale recupero. Indicazioni in tal senso arrivano anche dalle stime sul periodo natalizio, con un giro d'affari in crescita del 10% a 5,3 miliardi. Se infatti da un lato scende la spesa media pro capite, che passa da 551 a 505 euro, dall'altro cresce il numero di chi si concederà qualche giorno di svago. Complessivamente 10 milioni di italiani, il 20% in più rispetto al 2008. E non è poco, 2 milioni in più di italiani rispetto al 2008, spendendo però di meno. Ne torniamo a parlare dopo le informazioni sul traffico. 349-238-6666 per i vostri sms. Poi parleremo anche dell'eccellenza del nostro export, i settori dove siamo leader. Oggi un'inchiesta e analisi in prima pagina su Sole 24 Ore. Focus Economia. 17:47 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, 20% in più di turisti che spenderanno di meno, calo brusco dei turisti esteri. Dottor Corbella, come presidente appunto dell'Associazione Tour Operator Italiani, si ritrova in questi dati? Allora, come ha ricordato lei prima, i nostri dati prevedono un meno 10% come fatturato per l'anno 2009. Questo è essenzialmente frutto di una serie di fattori. Prima di tutto un'attenzione esasperata ai prezzi da parte dei consumatori, che hanno cercato di non rinunciare alle loro vacanze, quindi questo confermo questa tendenza, la vacanza è ormai quasi un bene, un bisogno irrinunciabile, però siccome la crisi soprattutto nella fascia media, nelle famiglie si sente, tagliano la durata e cercano anche delle offerte che sono magari o sottodata, quindi il famoso last minute, o con largo anticipo, o comunque tutte le formule dei nostri operatori pongono in essere. Prima si ricordavano anche dei dati più globali e il fatto che l'Italia ha perso posizione rispetto ad anni passati. Qui va fatta però una considerazione: nel 1950, quando l'OMT, l'Organizzazione Mondiale del Turismo, ha iniziato a fare queste statistiche, i paesi a vocazione turistica erano forse una decina e c'erano 25 milioni di turisti nel mondo. Nel 2008 siamo arrivati a 900 milioni di turisti, ma praticamente facciamo prima contare i paesi che non sono a vocazione turistica, perché in realtà quasi tutti offrono qualche cosa, quindi c'è una concorrenza molto maggiore e dove quindi il nostro confronto non basta avere il bel mare, non basta avere i monumenti unici eccetera, ci vuole un rapporto qualità-prezzo e un'offerta strutturata molto più efficace, altrimenti perdiamo la nostra competizione. Ecco, Corbella, per quello che riguarda invece le indicazioni, è un tema un po' ciclico, un po' come la neve d'inverno e il sole d'estate, però o le paginate sul cenone natalizio, cosa si mangerà per Natale. Ma insomma, le indicazioni che vi sono arrivate su questo Natale e Capodanno sono diverse dall'anno scorso, oppure le mete tutto sommato restano più o meno le stesse? Ma allora, le mete possiamo dividere intanto in varie fasce. Per coloro che hanno minori disponibilità temporali, certo, e anche economiche, rimangono popolari le capitali europee, quindi le solite città, Parigi, Londra, Berlino, Praga, eccetera, sono sicuramente Madrid, sono sicuramente di forte richiamo per i nostri turisti. E per chi invece ha maggiori disponibilità sia temporali che economiche, nel cosiddetto lungo raggio abbiamo nella parte orientale Maldive, Thailandia, una buona ripresa sul fronte africano che l'anno scorso aveva un po' sofferto, invece sta crescendo quest'anno, c'è sempre un buon traffico sull'area caraibica. Il traffico per la destinazione Nord America invece, nonostante il cambio favorevole del dollaro, non è andato così in maniera entusiasmante, anche se molti italiani invece se ne fanno un puntiglio di andare a fare il loro shopping a New York, soprattutto in occasione delle festività. Sì, anche se il dollaro qualcosa ha recuperato, volendo. Però rimane Resta sempre a 1,40, diciamo intorno a 1,40, quindi è sicuramente molto molto vantaggioso. Allora, vorrei capire da Giannuzzi Ponzo, che fanno due cose diverse, nel senso che, come dite voi, del settore uno fa incoming, cioè porta i turisti in Italia, l'altro, mi riferisco a Ponzo, li porta all'estero. Se vi ritrovate in questi dati, Giannuzzi, voi avete il Forte Village, che è uno storico albergo di lusso in Sardegna, ma avete anche lanciato Castel Monastero, che invece è un resort in provincia di Siena, Relais Chateau, per cui quello che voglio dire è che la fascia è molto alta. Vi ritrovate in questi dati? Cioè che tutto sommato è un settore che, qui parliamo del 2009, oltre che di Natale e Capodanno, ha tenuto botta? Sì, senz'altro. Per quello che ci riguarda possiamo dire che è stato il caso nostro. Ovviamente c'è un approccio diverso se parliamo di turismo, quindi di vacanza, e ovviamente le cose cambiano quando invece poi si parla di turismo legato alla convegnistica, agli eventi aziendali, eccetera, dove in effetti che aiutavano a destagionalizzare le nostre strutture, che invece sono due settori che sono in profonda crisi. Certo. Crisi. Invece la parte, diciamo, turistica, vacanziera, estiva, diciamo, ha tenuto bene al di là di ogni più rosea aspettativa. Chiaramente abbiamo perso nel periodo di shoulder, perché insomma dipendiamo molto dal mercato inglese, che è un mercato che quest'anno purtroppo è stato fortemente penalizzato dalla svalutazione della sterlina, però abbiamo avuto un clou della stagione estiva veramente, diciamo così, in linea con gli anni precedenti, quindi quello è un risultato, diciamo, che ci ha veramente riempito di orgoglio. Quindi nemmeno su un'offerta di fascia alta e anche molto alta come la vostra avete sentito o risentito a livello di prenotazioni individuali? Lei ha già fatto capire che invece sul fronte delle organizzazioni, delle convention aziendali, sì, insomma, lì la stretta c'è stata, i bilanci delle aziende sono quasi tutti in perdita, quindi è chiaro che va a tagliare anche quei costi e quelle spese, ma sul fronte individuale non essere in una fascia così alta non vi ha creato problemi? È stata molto ma molto mitigato dall'effetto di questa crisi, perché oggettivamente abbiamo avuto noi contiamo ovviamente su una clientela molto fidelizzata, il che è ovviamente uno zoccolo duro che ci aiuta tanto. Abbiamo anche, insomma, un po' di clientela che è un po' al riparo dai venti di crisi. Ma l'effetto Russia il fatto che molti, citiamo il caso di Forte dei Marmi, della Versiglia, ma di altri luoghi, la Russia è in estrema difficoltà finanziaria e economica, e i famosi mitizzati, in molti casi a mio avviso anche troppo, miliardari russi si sono fatti vedere meno. Voi questo avete notato o no? Beh, diciamo che il numero qualche cosina in meno l'abbiamo avuta, ma onestamente non sono state cifre incidenti assolutamente. Daniel Ponzo, parliamo anche di numeri poi dei gruppi, perché insomma voi come Quoniga, Stadi, Tours avete chiuso i primi 9 mesi del 2009 con un calo di quasi 20, di più del 20%, 21% di calo a 9 miliardi di euro. È andata un po' meglio, qui mi interessa più la parte di business vera e propria. anche di tendenze sui viaggi. È andato un po' meglio l'ultima parte dell'anno, l'ultimo trimestre? Ma diciamo che possiamo dire che la conferma del meno 21% è, diciamo, è al netto un po' della situazione che si è creata con la febbre suina, anche perché senza quell'impatto avremmo avuto sicuramente un anno migliore, quindi l'impatto economico è una cosa, invece la febbre suina è un'altra, quindi possiamo dire comunque che da settembre in poi abbiamo avuto una richiesta sul Natale abbastanza forte, con diciamo un tutto esaurito, anche con una capacità ridotta rispetto all'anno scorso. Abbiamo avuto diciamo delle destinazioni come Maldive, Mauritius, Seychelles, New York e Africa che sono andate molto bene, anche i Caraibi è in forte ripresa. Nell'insieme l'anno non è andato troppo male su alcune destinazioni, anzi ci sono delle destinazioni come l'Africa che è andata molto bene, cioè complessivamente, una destinazione nuova come il Giappone, che è anche una destinazione che è andata molto forte, e per quanto riguarda anche i segmenti di nicchia come il segmento di lusso è andato anche bene. E la nostra linea di prodotto di scoperta che è cresciuta del 25%. Quindi notiamo che le nicchie vanno bene, mentre le destinazioni un po' più di larga scala hanno sofferto. Soffrono di più. E questo lo abbiamo sentito. Beh, mi sembra di capire, perché sia quello che diceva Corbella che quello che poi dice lei adesso. Alcuni continenti sono stati riscoperti. Mi sembra di capire, Ponzo, che non avete notato, a parte un ritorno dell'interesse, ma nuove, diciamo, delle variazioni significative sotto Natale e Capodanno rispetto al resto dell'anno, cioè maggiore prenotazione, ma non su destinazioni completamente diverse? No, assolutamente no. Ovviamente il mese di dicembre complessivo rispetto all'anno scorso è leggermente sotto. Però il periodo di Natale e Capodanno, diciamo, la domanda c'è. Grazie, siamo in chiusura. Io lo dico anche rispondendo ai messaggi al 349-238-6666. In realtà, anche da questi dati, appunto, quando si scopre che poi la nicchia tiene e quello che ha difficoltà è il mercato in massa, secondo me si trova anche un senso logico, un filo rosso con la prima parte del programma, e quindi dati dell'Istat sulla povertà in questo paese. Nessuno mette in discussione la fotografia di una società fatta a clessidra, che ricordava Stefano Zamagni in apertura di programma, in cui aumenta la base dei ricchi, aumenta la base di chi è in difficoltà, comprimendo e strangolando la classe media. Si diceva solo che non è una novità di quest'ultimo anno, ma anche le tendenze sul turismo, in cui appunto i viaggi più organizzati e costosi tengono bene e soffrono di più le spese medie delle famiglie normali, mi sembra poter andare in questa direzione. Grazie comunque a Roberto Godella, presidente della STOI, a Otto Giannuzzi del Forte Village e a Daniel Ponzo, amministratore legato alla Quoni Gastaldi TUS. Adesso il GR, vi do però una notizia appena battuta dalle agenzie: confermati gli aumenti di gas e luce da gennaio dopo un anno di ribassi. 26 euro in più di spesa annua, dice l'autorità per energia e gas, più 2,8% il gas e più c'è un errore nell'agenzia, più 2,8% il gas, meno 2,2% almeno questo, la luce, molte lampadine, meno fornelli. Il GR poi parliamo dei campioni del nostro export, di questa Italia che nonostante tutto resta dopo la Germania la regina delle esportazioni. Focus Economia. Minuti, seconda parte di Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. E allora, terminato anche l'approfondimento sul turismo, ripeto, a mio avviso i due dati, quello sul turismo e quello sui poveri, diffuso oggi dall'Istat, si possono tenere assieme. Torniamo su un tema che molti di voi ci chiedono, le commissioni di massimo scoperto. Ricorderemo cosa ha dichiarato oggi l'antitrust, non la di consumo e i consumatori. E poi invece cerchiamo di chiudere questa puntata con una buona notizia, perlomeno una buona prospettiva, visto che oggi Sole 24 Ore dedica due pagine, oltre che un richiamo in prima pagina, all'eccellenza del Made in Italy. È uscito infatti un indicatore, ne parleremo con chi l'ha realizzato, porta in parte anche il suo nome, un indice Fortis Corradini, sulla presenza, la capillarità e la capacità che hanno i prodotti italiani di imporsi in alcuni settori importantissimi. Citavo prima la rubinetteria e le valvole, valgono da soli 5 miliardi e 600 milioni di euro di esportazioni, ma potrei aggiungere la gioielleria, 5 miliardi e 400 milioni, le parti di mobili, 2 miliardi di export, a cui si sommano armadi, vetrine, un altro miliardo e mezzo. Insomma, c'è un'Italia che non sempre emerge, anzi poche volte emerge. La meccanica per impacchettare, le macchine per impacchettare valgono 2 miliardi e 200 milioni di export in questo paese, il cuoio e le pelli concette 4 miliardi e 6. Ne parleremo fra un minuto. Prima di tutto ricordiamo invece che cosa è successo a chi, o meglio al mondo bancario, dopo che è stato obbligato a eliminare la commissione di massimo scoperto. Anche qui nessuna polemica con le banche, ci mancherebbe, le abbiamo criticate quando ci sembrava che non stessero concedendo, sembrava forse un eufemismo, crediti alle piccole e medie imprese, e poi quando abbiamo visto i bilanci tornare tutti inutili, ma diciamo non abbiamo capito come, mi riferisco in questo caso alle banche americane, le abbiamo elogiate quando abbiamo visto accordi sul territorio di alcuni gruppi bancari con piccoli imprenditori, con i commercianti, con gli artigiani, abbiamo visto la moratoria sui mutui per le famiglie in difficoltà, tutte cose virtuose, oggi torniamo a criticarle. O meglio, non lo facciamo noi, non ci permetteremo mai, ma l'antitrust, che ha mandato una segnalazione al governo, al Parlamento e anche alla Banca d'Italia. Che cosa dice l'antitrust? Dice che le commissioni che hanno quello che si chiama gli scoperti transitori di conto corrente, che hanno di fatto sostituito la commissione di massimo scoperto, sono più costose per i consumatori e sono più costose non di poco, fino a picchi di 15 volte quello che costava la commissione di massimo scoperto, che verrebbe voglia dire ridateci la commissione di massimo scoperto, che ricordo fu eliminata per legge, che doveva consentire insomma una maggiore trasparenza anche nei costi bancari, reintrodotta dalla finestra. Tra l'altro la situazione dei clienti che possono contare sul fido è migliorata solo anche qui per un intervento legislativo. La legge del 3 agosto 2009 ha stabilito che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme non poteva essere più alto dello 0,5%. E meno male, perché sennò chi ha avuto il fido fino a quel momento praticamente era arrivato a peggiorare la situazione di 2-3 volte rispetto a prima. Altro non possiamo aggiungere, non si segnalano dichiarazioni dell'ABI, per cui insomma immagino che magari sotto feste tutto passerà in silenzio. Cambiamo tema allora, iniziamo a parlare di cose positive, di cose buone, perché Marco Fortis assieme a Stefano Corradini, come oggi scritto su Sole 24 Ore, ha scoperto che non solo l'Italia ha continuato a aumentare il suo export anche l'anno scorso, ma ha scoperto che andando ad analizzare i numeri, i settori di competenza, che noi siamo, dopo la Germania, il paese che ha più posizioni di leadership in alcuni settori merceologici al mondo. Se uno va a vedere, divide per settori merceologici, gioielleria, calzature, tessile, macchinari, utensili, alimentari, bevande, laminati, plastica, sport, barca, insomma noi risultiamo numeri uno, numeri due in moltissimi di questi settori e in maniera così alta che solo la Germania ci batte. Intanto i dati sul valore che portano questi settori, questa Italia silenziosa, fatta, non lo dico senza retorica, di piccole e medie imprese che pochi conoscono, ma che insomma ci garantisce quel benessere di cui ancora godiamo, non tutte, giudicare dai dati Istat. Dicevo, questa Italia raccontata da questa scheda. Alimentare, mobili e meccanica. Quando si parla di Made in Italy, il pensiero va subito a uno di questi quattro settori. Tuttavia, l'universo delle produzioni italiane di successo è molto più vario ed articolato, spaziando da comparti di nicchia come le giostre e le altalene o le selle per bicicletta a settori più pesanti come la siderurgia e i materiali per l'edilizia. Tanto che complessivamente sono più di 1000 i prodotti per cui l'Italia si colloca tra i primi 3 esportatori al mondo e dalla cui vendita all'estero ricava circa 260 miliardi di dollari l'anno. Su tutti svetta la rubinetteria con un valore dell'export di 5,6 miliardi di dollari, seguita a breve distanza dai prodotti di gioielleria che fruttano 5,4 miliardi l'anno. Poi compaiono le voci più tradizionali del Made in Italy. Il terzo gradino del podio è infatti occupato dalle ceramiche, che valgono 3,2 miliardi di dollari l'anno solo di esportazioni. Seguono le calzature, i prodotti in cuoio e le imbarcazioni, con circa 2,5 miliardi a testa. La classifica dei fiori all'occhiello dell'export italiano si allunga con le macchine per imballaggio, i mobili, i lavori di alluminio, le borsette in pelle e i macchinari per la biancheria, che valgono poco più di 2 miliardi di dollari ciascuno. Vicinissimo e appena sotto i 2 miliardi il valore delle esportazioni annue di occhiali da sole e navi passeggeri. Chiudono infine la classifica con esportazioni intorno al 1,5 miliardi a testa i tubi di acciaio, la pasta, le barre d'acciaio e le pompe per liquidi. E potremmo aggiungere cuoio e le pelli, le parti di metallo, 1,2 miliardi a testa. Allora, io so che delle volte uno viene da sorridere e dice, ma sì, ma sono settori. No, attenzione, messi assieme, questi settori ci garantiscono un export che vale 2 manovre finanziarie. E soprattutto, come ricordava anche la nostra scheda, sono più di 1000 i prodotti al mondo in cui noi siamo leader. Professor Marco Fortis, buonasera. Buonasera. Lei appunto ha sviluppato l'indice Forti con la Fondazione Edison, ci mancherebbe, Fortis Corradini. Dopo le informazioni sul traffico, ci racconti anche come avete fatto a capire che l'Italia in così tanti prodotti è o numero uno, o numero due, o numero tre, un po' come se fosse un medagliere olimpico, se ho ben capito il funzionamento di questo indice. Si va a vedere poi chi ha beccato più ori, argenti e bronzi, e noi veniamo solo dopo la Germania. Contenti intanto gli abitanti di Lumezzana e della Valsesia, perché insomma 5 miliardi e 600 milioni euro esportati in rubinetti non è poca cosa. Ci risentiamo dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms. Focus Economia. Fuori dai luoghi comuni, potremmo battezzare così quest'ultima parte di Focus Economia, raccontando appunto quello che ha scoperto l'indagine e l'indicatore elaborato appunto dalla Fondazione Edison, l'indice Fortis Corradini. Abbiamo detto 1000 primati, come titolava oggi sulle 24 ore, per il Made in Italy, valori importantissimi. Voglio dire, quello che esporta la rubinetteria di Lumezzane senza nessuna polemica è pari a quello che incassiamo dallo scudo fiscale come Stato, giusto per dare l'idea. Per cui, e da solo Lumezzane e la Valsesia esportano 5 miliardi e 600 milioni di rubinetti all'anno. Allora, e questo poi vale anche per gli altri settori. Professor Fortis, com'è questo, come funziona questo indice? Voi siete andati a vedere che cosa? Quante medaglie argento, oro, argento e bronzo beccavamo in alcuni prodotti, nei vari prodotti? Ben sintetizzato, abbiamo costruito un piccolo modello matematico per interrogare, diciamo, le banche dati sul commercio internazionale di oltre 5.500 prodotti, e grazie a questo modello, a questo algoritmo matematico, siamo in grado di ottenere la risposta per ogni anno. Adesso ci siamo fermati al 2007, ma tra pochi giorni saremo in grado, con i dati completi per tutti i paesi del mondo, anche di ricavare il medagliere del 2008, di valutare in quanti prodotti l'Italia, ma tutti i paesi in realtà, perché abbiamo le classifiche anche per gli altri paesi principali, quelli del G20, in quanti posti, primi, secondi e terzi posti, si colloca il nostro paese nelle esportazioni mondiali di ben 5.500 prodotti. Che possono sembrare specifici, appunto fucili da caccia, calzature da sci, fusioni in alluminio, barre, profilati non legati, macchine per biancheria, cappe aspiranti, forni, macchine per preparazione industriale della frutta, macchine per l'agricoltura, prodotti alimentari, caffè torrefatto, armadi, vetrine, scaldacqua, bruciatori, carta igienica, macchine per la carta. Ma insomma, cioè, so che può sembrare meno così interessante di grandi ragionamenti, ma tutti messi assieme questi prodotti, mi scusi, dove ci collocano a livello mondiale, professor Fortis? Beh, dunque, per quanto riguarda il numero complessivo di primi, secondi e terzi posti, ci troviamo al quarto posto a livello mondiale, dopo la Cina, la Germania e gli Stati Uniti, ma per numero di primi, secondi e terzi posti ogni 100.000 abitanti siamo secondi soltanto alla Germania, quindi in rapporto alla numerosità della nostra popolazione esprimiamo un notevolissimo numero di primati. Cioè, un attimo, perché questo tema è importante. Voi avete scoperto che noi abbiamo 1022 prodotti in cui siamo leader al mondo. Esattamente, sì. Mentre la Germania ne ha 1980, la Cina 1980, qua 80 anche lei, e gli Stati Uniti 1780. Prodotti proprio, di tutti quelli che ho ricordato. Singoli prodotti. Singoli prodotti. Esattamente. Solo che, giustamente, la Cina c'ha 1,5 miliardi di abitanti, l'America 250 milioni, il raffronto è tra Italia e Germania, cioè se eliminiamo qui, se andiamo a vedere in quanti prodotti abbiamo la leadership ogni 100.000 abitanti, siamo secondi al mondo dopo la Germania. Sì, la cosa interessante è che poi al terzo posto, se valutiamo il numero di primati ogni 100.000 abitanti, troviamo la Francia. Questo dimostra che ci sono molti luoghi comuni sulla vecchia Europa, che in realtà continua a essere un'area molto forte nella produzione manifatturiera e nell'export. Anche se con un po' di così sciovinismo questa volta mio, o meglio nostro, verso i francesi, la Francia ha 678 prodotti in cui è leader, noi 1022. Certo, la Gran Bretagna si conferma un mondo fatto di servizi, più che di manifattura, ne ha soli 400, e poi tutti gli altri paesi sono paesi fuori dall'Europa, il Giappone, lo cito, ne ha 700, insomma, distanziati poi tutti gli altri. Che cosa l'ha sorpresa di più? Perché insomma, scoprire che la gioielleria, l'export della gioielleria, regala all'Italia 5 miliardi e 400 milioni ogni anno, un po' si sapeva che noi siamo leader a Valenza e a Vicenza, soprattutto nell'oro, un po' lo si sapeva. Per inciso, nessuno ha mai detto che Lumezzane è la Valsesia, detto Lumezzane e la Valsesia, i due distretti del Rubinetto. Lumezzane è a tutti gli effetti in provincia di Brescia. Che cosa l'ha più sorpresa, professor Fortis? Diciamo che la cosa più interessante che emerge da questa ricerca è soprattutto la varietà di primati non realizzati da singoli grandi comparti, ma proprio da una innumerevole serie di nicchie che ha il nostro paese. E questo aspetto è importante perché anche se la crisi oggi è fortissima e in molti settori dove siamo leader abbiamo perso il 30-40% del fatturato quest'anno, ciò non significa che abbiamo smesso di saper fare questi mestieri, anzi no, non avevamo rivali prima della crisi, non si capisce per quale ragione non potremmo tornare ad essere i primi anche dopo la crisi, quindi un primo risultato di questa ricerca è che induce una certa speranza sul fatto che le nostre posizioni di leadership possano essere mantenute anche nel dopo crisi. Il numero di prodotti è così ampio e così diversificato che certo ha portato qualche sorpresa, soprattutto per quanto riguarda le nicchie più piccole, ecco, no? Quando vediamo per esempio che abbiamo anche in alcuni comparti particolari come i tappi a corona per esempio, piuttosto che i fagioli preparati o conservati, i sollevatori di autovetture per le autorimesse, no? Le giostre, le altalene, i lavori in asfalto, abbiamo dei primati mondiali, queste sono certamente delle novità, delle curiosità. Poi anche in certi comparti che vengono normalmente considerati maturi è significativo sottolineare la leadership dell'Italia, per esempio nei tubi in ferro e acciaio, in moltissime produzioni della metallurgia abbiamo dei primati mondiali veramente significativi che ci assicurano entrate dell'ordine di 4-5 miliardi di dollari per ciascuna tipologia di questi prodotti. E qui confesso anche la mia ignoranza, pur girando abbastanza l'Italia, parlando con le varie associazioni degli imprenditori, insomma, io mai avrei detto che noi esportiamo 500.000, quindi 1 miliardo di vecchie lire, cioè 500 milioni di euro, mi scusi, non 500.000, ci mancherebbe, 500 milioni di euro, quindi 1.000 miliardi delle vecchie lire di carta igienica, cioè, sì, abbiamo, forniamo anche carta igienica al mondo, anche e qui settore... mi fermo, professore. Sì, beh, il settore della carta in Italia ha un distretto importantissimo che si trova in provincia di Lucca e che esprime tutta una serie di leadership estremamente significative, un po' tutta la carta, diciamo, per usi casalinghi, anche la carta per esempio che si usa in cucina, ma anche le stesse macchine per lavorare queste tipologie di carta hanno in questo distretto lucchese un punto di riferimento molto importante. 450 milioni di euro di carta igienica esportate ogni anno, cioè considero quello che costa la carta igienica, non ci fa nome, ma vado avanti, macchine per impacchettare, dice, cosa sa, ma 2 miliardi e 200 milioni di export, macchine per molare, e molare, se non ricordo, penso di aver capito cosa voglia dire, anche qui esportiamo 880 milioni di euro l'anno di queste macchine, ecco perché, cioè, non c'è solo le 4A che lei ha brevettato, no? Alimentare, automazione, arredo e auto, mi sono dimenticato, alimentari, eccola qua. Ma ci sono tanti altri settori. La domanda però cattiva gliela devo fare come sempre ai nostri ospiti. Allora, questa Italia che voi avete fotografato, in cui siamo leader in 1.000 prodotti al mondo e veniamo solo dopo la Germania per in rapporto agli abitanti, solo dopo il gigante cinese, americano e tedesco in assoluto, chi se la fila, se mi permette un linguaggio poco economico, cioè si parla sempre dei grandi gruppi, questi lamentano che non hanno soldi con le banche, che le banche gli applicano Basilea 2, non ci sono grandi iniziative a livello di politica economica, cioè devono sempre farcela da soli? Beh, diciamo che è sempre difficile fare delle generalizzazioni, però questa fotografia che emerge da questi dati è soprattutto la fotografia della parte più robusta della nostra economia manifatturiera, cioè di quelle medie imprese strutturate che corrispondono all'idea del cosiddetto quarto capitalismo, no? Quelle imprese che quindi hanno capacità di stare con fatturati che vanno dai 20-30 milioni di euro fino ad arrivare al miliardo di euro sui mercati internazionali e anche di presidiare con piccolissimi fatturati delle nicchie importanti. Ci sono dei piccoli leader che, per quanto piccoli, sono assolutamente incontrastati. Ci sono... No, vengo alla domanda ancora, che la metterà ancora più in difficoltà, ma non avrebbe senso a questo punto fare una politica fiscale a vantaggio proprio, siccome sappiamo che le imprese di questi settori, fatti salvi alcuni casi rari, sono di fatturato medio, vanno intorno ai 50-100 dipendenti se ci arrivano, avere politiche economiche a maggior ragione fiscale che aiutino la capitalizzazione, agevolino il credito bancario, se no... Beh, diciamo che un aspetto importante è proprio costituito da alcune recenti misure che sono state introdotte, che sono anche allo studio da migliorare ulteriormente, che riguardano per esempio le aggregazioni tra le imprese, proprio per favorire il rafforzamento di piccole e medie imprese che possono entrare a far parte di questo gruppo d'élite delle nostre medie imprese più strutturate. Quindi tutto ciò che favorisce le aggregazioni, le alleanze tra le imprese in questo momento andrebbe favorito, non per puntare a un gigantismo industriale che non ha nessun senso nel nostro paese, dove abbiamo già perso gruppi come Montedison, Olivetti, e che storicamente non abbiamo un'eredità di grandi gruppi, no? Nel settore industriale, ma più che altro per rafforzare questa nostra capacità di presidiare tutte le nicchie possibili del commercio internazionale in cui abbiamo delle posizioni di eccellenza. Io la ringrazio nell'augurarle buon anno, grazie Marco Fortis, perché come sempre ogni volta che parlo con lei imparo qualcosa di più, di dati reali dell'Italia, passatemi il termine un po' retorico, dell'Italia vera, non di quella che viene ogni tanto rappresentata in altro modo, e non dell'Italia finanziarizzata. Ci sono, vi invito a leggere oggi appunto la tabella, ci sono settori incredibili, noi esportiamo 800 milioni di euro quasi di mele fresche, esportiamo praticamente sul fronte addirittura 75 milioni di euro di chiavi, alcuni di voi mi chiedevano le macchine, anzi la rubinetteria, l'abbiamo detta. L'ultima che voglio citare è il distretto di Sassuolo della ceramica, dato per morto, le piastrelle ormai le fanno i cinesi. Beh, meno male che le fanno i cinesi, perché l'anno scorso abbiamo esportato 5 miliardi di euro di piastrelle. E con questo Da Sebastiano Berisoni a voi in ascolto un auguro di buon fine d'anno. Domani non sarò io a condurre il 31, la puntata, una puntata speciale, spero anche abbastanza divertente, sui luoghi comuni dei gruppi, delle aziende, delle banche, di chi si riempie di inglesismi. Buon anno a tutti, ci risentiamo nel 2010. Radio 24, la passione si sente.